Sezione 32esima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 32esimo. Affetto al suo piacer, quel contemplante libero ufficio di dottore assunse e cominciò queste parole sante. La piaga che Maria richiuse ed unse, quella che è tanto bella da suoi piedi, è colei che la perse e che la punse. Nell'ordine che fanno i terzi sedi, siede Rachel di sotto da costei, con Beatrice, sì come tu vedi, Sarra, Rebecca, Judith, e colei che fu bisava al cantor, che per doglia del fallo disse, miserere mei. Puoi tu veder così, di soglia in soglia, giù di gradar, com'io ch'a proprio nome vo per la rosa, giù di foglia in foglia. E dal settimo grado in giù, siccome insino adesso succedono ebree, dirimendo del fior tutte le chiome, perché, secondo lo sguardo che fe la fede in Cristo, queste sono il muro a che si partono le sacre scalee. Da questa parte, onde il fiore maturo di tutte le sue foglie, sono assisi quei che credettero in Cristo venturo. Dall'altra parte, onde sono intercisi di voto i semicircoli, si stanno quei che a Cristo venuto ebber li visi. E come quinci il glorioso scanno della donna del cielo e gli altri scanni di sotto lui cotanta cerna fanno, così, di contra, quel del gran Giovanni, che, sempre santo, il diserto e il martiro sofferse, e poi l'inferno da 2 anni, e sotto lui, così cerner sortiro, Francesco, Benedetto e Agostino, e gli altri sin quaggiù di giro in giro. Or mira l'alto provveder divino, che l'uno e l'altro aspetto della fede igualmente empierà questo giardino. E sappi che dal grado in giù, che fiede a mezzo il tratto le 2 discrezioni, per nullo proprio merito si siede, ma per l'altrui con certe condizioni, che tutti questi sono spirti assolti prima che avesser vere elezioni. Ben te ne puoi accorger per li volti ed anche per le voci puerili, se tu gli guardi bene e se gli ascolti. Or dubbi tu, e dubitando sili, ma io ti solverò forte legame in che ti stringon li pensier sottili. Dentro l'ampiezza di questo reame, casual punto non puote aver sito, se non come tristizia o sete o fame, che per eterna legge stabilito quantunque vedi, sì che giustamente ci si risponde dall'anello al dito. E però questa festinata gente a vera vita non è sine causa, entrasi qui più e meno eccellente. Lo rege, per cui questo regno pausa, in tanto amore ed in tanto diletto, che nulla volontade è di più ausa, le menti tutte nel suo lieto aspetto, creando a suo piacer di grazia dota diversamente, e qui basti l'effetto. E ciò espresso e chiaro vi si nota nella scrittura santa, in quei gemelli che nella madre ebber l'ira commota. Però, secondo il color de capelli di cotal grazia, l'altissimo lume degnamente convien che s'incappelli. Dunque, senza mercè di lor costume, locati son per gradi differenti, sol differendo nel primiero acume. Bastava sì nei secoli recenti con l'innocenza, per aver salute, solamente la fede de parenti. Poiché le prime etadi fur compiute, convenne a maschi all'innocente penne per circoncidere acquistar virtute. Ma poiché il tempo della grazia venne, senza battesimo perfetto di Cristo, tale innocenza laggiù si ritenne. Riguarda omai nella faccia che a Cristo più s'assomiglia, che la sua chiarezza sola ti può disporre a veder Cristo. Io vidi sovra lei tanta allegrezza piover, portata nelle menti sante, create a trasvolar per quell'altezza che, quantunque io avea visto davante, di tanta ammirazion non mi sospese, né mi mostrò di Dio tanto sembiante. E quell'amor che primo lì discese cantando Ave Maria, grazia plena, dinanzi a lei le sue ali distese. Rispose la divina cantilena da tutte parti la beata corte, sì ch'ogni vista sen fe più serena. O santo padre, che per me comporte l'esser quaggiù, lasciando il dolce loco nel qual tu siedi per eterna sorte, qual è quell'angel che con tanto giuoco guarda negli occhi la nostra regina, innamorato sì che par di fuoco? Così ricorsi ancora alla dottrina di colui che abbelliva di Maria come del sol la stella mattutina. Ed egli a me, baldezza e leggiadria quanta esser puote in angelo ed in alma, tutta è in lui, e sì volem che sia, perché egli è quel che portò la palma giuso a Maria, quando il figliuol di Dio carcarsi volle della nostra salma. Ma vieni omai con gli occhi sì com'io andrò parlando, e nota i gran patrici di questo imperio giustissimo e pio. Quei due che seggon lassù più felici per esser propinquissimi ed augusta, son d'esta rosa quasi due radici. Colui che da sinistra le s'aggiusta è il padre, per lo cui ardito gusto l'umana specie tanto amaro gusta. Dal destro vedi quel padre vetusto di Santa Chiesa, a cui Cristo le chiavi raccomandò di questo fior venusto. E quei che vide tutti i tempi gravi pria che morisse della bella sposa che s'acquistò con la lancia e co chiavi, siede lunghesso e lungo l'altro posa quel duca sotto cui visse di manna la gente ingrata, mobile e ritrosa. Di contro a Pietro vedi sedere Anna, tanto contenta di mirar sua figlia che non muove occhio per cantare Osanna. E contro al maggior padre di famiglia siede Lucia, che mosse la tua donna quando chinavi a ruinar le ciglia. Ma perché il tempo fugge che t'assonna, qui farem punto, come buon sartore che come gli ha del panno fa la gonna. E drizzeremo gli occhi al primo amore sì che guardando verso lui penetri quant'è possibile per lo suo fulgore. Veramente, né forse tu t'arretri, movendo l'ali tue, credendo oltrarti, orando grazia convien che s'impetri, grazia da quella che puote aiutarti, e tu mi seguirai con l'affezione, sì che dal dicer mio lo cuor non parti. E cominciò questa santa orazione. Fine del canto 32.